No, grazie. No, ma forse Paolo se non ci sta. Sai, io mi sono faccio per il bolletto. Sto di studiare e poi non mi scrivo nel primo grado. sta giocando a palla. Sì, sì, sì.